And my name is Ragnar Pfizer. Che siamo in par condicio. Andrea, guarda, siccome sono tuo amico, ti posso dare un consiglio proprio di lunedì sera, così di non litigare con questo così, accanto no, così ne fai tesoro tutta la settimana. Ti dovresti far vedere da qualcuno per disintossicarti da Facebook, perché hai preso un brutto andazzo, io te lo dico, guarda. Lo faccio per il bene della collettività, lo sai. Ah, vabbè, sì, vabbè. In questo momento ho postato un video di Offbeats sulla pagina di Offbeats. Per il collettivo dei tossici di Facebook, la collettività lì. Siamo io e il brother milanese, quello di prima dell'intervento. Ragnar Pfizer in full effect stasera, eh? Eh sì, eh. Ogni tanto, abbiamo anche gli stacchetti. Ogni tanto ci sta tutti. Non ci siamo solo tutti noi, non ci sono solo tutti e quattro i DJ che vi animeranno la serata questa sera. Ma ci sono anche gli stacchetti di Duccio. No, perché i commenti che scrivono di più su www.ragnampaisa.blogspot.com, quando vanno in onda le trasmissioni senza i biatch di Duccio, tutti, ma non c'è Duccio, che è tutta un'altra cosa, vedi, infatti stasera si va alla grande. Cioè non si entra nel mood, non si entra nell'atmosfera. Ci abbiamo un sacco di notizie, quindi prendete penna e calamaio, perché oggi vi riempiamo di appuntamenti. E papiro anche. Sta roba qui è già roba tua, mi sa. Sì, non si va nel mood, ma si va nel mug. Battutone. L'avete capito, no? Il primo set da 20 minuti è proprio suo, di Tommy. Come here to stare, that strips my conscience bare. It's witchcraft, and I've got no defense for it. The heat is too intense for it. What good would common sense for it do? And although I know it's strictly taboo,

firm and young with a laid-back tone. The aim is to succeed and achieve at 21. Just like Ringling Brothers, our days in astound. Captivate the mass cause the pros is profound. Do it for the strong, we do it for the meek. Booming in your boomin' in your boomin' in your Jeep, or your Honda, or your Beamer, or your Legend, or your Benz. The rave of the town to your foes and your friends. So push it along, trails we blaze. Don't deserve the gong, don't deserve the praise. The tranquility will make you unball your fists. For we put hip hop on a brand new twist. A brand new twist with a whole heap of mystic. So low key that you probably missed it. But yet it's so loud that it stands in the crowd. When the guy takes the beat, they bowed. So raise up, squire, adjust your attire. We have no time to wallow in the mire. If you're on a foreign path, then let me do the lead. Join in the essence of the cool out breed. You cool out to the music cause it makes you feel serene. With the birds and the bees and all those groovy things. Like getting stomach aches when you gotta go to work, or staring into space when you're feeling berserk. I don't really mind if it's over your head, cause the job of resurrectors is to wake up the dead. So pay attention, it's not hard to decipher. And after the horns you can check out the... Non esiste che ti lascio passare. Cosa credi che lavoro a fare? Non mi spingere perché finisce male. Ti blocco su Facebook, ti minaccio col numero anonimo al cellulare. Ti uccido via messaggio privato. Ti scrivo su YouTube sfigato, brutto e stempiato. E Cristo ti giuro sul crocifisso che ti visto su qualche mixtape che non è missato. L'incredibile Gaemon, il ragazzo che racconta più il cuore e meno l'estremo. Non mi passa più un giorno senza una para. Mantilo il Niagara dentro a una giara. Se mi metti al libro paga. Pistole di idioti, piste, scambio di voti. Io ho deciso di cambiarmi tutti e due i nomi. Perché non sono in strada, io sono fuori. Chiamami Gran Cherokee, sì. Oh, e non mi dire oh. Che non sopporto chi mi dice oh, oh. E non sopporto che io quando ti telefono non dici ciao ma dici dimmi. Anche se non ti sento da più di un secolo. Paradossi della vita normale. Ripigliati tu e fai un po' di vita sociale. Se paghi per entrare in un locale, ma poi a quanto pare stai tutta la sera fuori a fumare. Le gambe fuori, la testa batte, le mani per la mia orchestra. G-H-E-M-O-N could either dance or just have a seat and listen to the way in what I am displaying. A different kind of rapper language that I am saying. To all the party people that exorbit for info. When it come to rockin' parties, I am a nympho. Maniac, brainiac for doing my dancing. My record make the music. We'll put you in a trance and transcend your body and like it with my cardigan. You won't be fighting the illin', you just be partying down. With the funky sound with yours truly. I'm the original B-I-Z, I'm it. Okay, I will the E and I aim to have fun and not be number one. And just here to let you know who's like running. A place and everywhere that I perform and do a show, show, as long as you know that. Nobody beats the biz. Nobody beat the biz. Nobody beats the biz. Nobody beat the biz. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. I wanna fly like an eagle to the sea. I could lose all all my troubles by running away. No, no, I wouldn't stay. No, I wouldn't. They just keep on hanging around me. I won't go away, no, no, won't go away. It just ain't fair, no, no, no, just ain't fair. Bitch. This whole year has been a blunder. Yes, I've lost my sense of wonder. There are no sweet, warm lovers to turn to. Have no one to talk, brother. On every street in the city, you got afraid, yes, so afraid. Can see past the surface of plans that are made to drive you insane. Everywhere there's danger. You won't even want to find yourself a place to hide. E così se ne sono andati i primi 24 minuti di Ragnar Paisa oggi. Dove sono andati? Nella tua borsa dei dischi. Sono andato a prendere il caffè? Sì. Adesso tocca al buon Duccio, ma prima iniziamo a spararvi qualche notizia, perché io spara ce ne qualche ho troppo. Stupidaggine. Io sono pieno, vai. Sempre. Iniziamo dalla notizia triste che sta girando tra blog e social network, purtroppo con grande velocità. L'arresto cardiaco di Guru, Mr. Jets Mattaz. Sì, io no, guarda, non volevo di niente, perché insomma speriamo insomma che possa rientrare la situazione, però sì. È un po' la notizia triste del giorno, la trovate su Twitter, su Facebook. L'ultimo a rimbalzarla è il buon Superfly, nella persona di David Nerattini, che salutiamo, sappiamo spesso in ascolto della trasmissione. Una notizia invece bella, giusto così per tentare un po' di equilibrare il patema d'animo che abbiamo per Mr. Gangstar, è che è uscito proprio in questi giorni un documentario sul beneamato Jay Dilla, promosso dalla Stussy, il marchio di abbigliamento. Ho visto dei pezzetti di video qua e là. Si trova, allora, in tre parti per un totale di circa 15-16 minuti. Le prime due parti sono su YouTube. Ho visto qualcosa lì, infatti. La terza, ci fa sapere su Twitter il buon Dimo, proprio ora si trova su Vimeo. Ah, ok. Perché questo pomeriggio c'era un po' di gente disperata come me che non trovava la terza parte. Se lo dice lo zio Dimo. A proposito di cose da vedere, ma anche di sentire, il nuovo sito di Gianniro Jarrell si chiama viberianexperience.com. E ci trovate anticipati i primi pezzi del nuovo album, che dovrebbe uscire verso aprile. Ultima notizia che riguarda i video, poi basta. Vai, se te lo amo video ormai. È uscito proprio oggi Dottor No di Kazuma. Almeno oggi è iniziata a circolare la notizia che ci fosse questo nuovo video su un pezzo incluso da Deda, appunto, nell'ultimo lavoro come Kazuma. Il video spacca, vai, che l'ha visto? Ho visto molto di genere, no? Tipo, sembra un po' Dr. Spock nella cabina di comando all'inizio. Sì, tutto sull'astronave. Poi le bolle finte fuori quando finiscono sul fondo del mare, sì. Esatto. Mi ricordava un po' quel video dei Beastie Boys, quello di Spike Jonze con i robot, quelli finti, no? I riferimenti erano un po' quelli lì. Basta, abbiamo rubato anche troppo tempo al set di Duccio, questo è tutto suo. Ragnar Paisa.

Songs cost 99 cents. Yeah. Free red moguls, beef over logos. Quick snapshot, thanks for the photo. Promo all the time on the drop of a dime. .org. Organized crime while I'm out on tour. You already know I'm running a malpractice. Where I'm from, we trade half O's for ad libs. Milk is like gas at $5 a gallon. So now I'm back at them with another block anthem. I can't stop bragging, I'm the best in the city. Pets is acting like a baby mama city. Now you're asking. What now? Get involved, get busy, or get knocked the fuck out. I don't know if that's the right sound for this. I guess I'm gonna make an adjustment. We'll be right back. va così stasera. Questo è l'inno di tutta la nostra vita, praticamente. Antim! Remix speciale di Duccio, peraltro. Eh sì, è Duccio Productions. Allora, Penne e Calamaio, vi dicevo perché c'è un sacco di cose da ricordarvi, un sacco di serate in settimana, roba interessante da andare a sentire, vedere. Ad iniziare dalla prima data in ordine di tempo, la segnalo io perché mi è arrivata testè. Bello testè, eh? La serata di domani al Loch Ness di Firenze. Con... c'è anche un mostro? Esatto. Ecco, è vicino al lago di Bilancino, no? No, è in centro il Loch Ness, eh. Non, non mandiamo i nostri ascoltatori. Cioè, poi va la gente o la canna da pesca. Esatto. Capito? Va bene. Ci sono Biga e Mille Lemmi domani sera al Loch Ness, appunto. A proposito di Mille Lemmi, stiamo preparando, oggi c'è un sopralluogo tecnico, diciamo. Ci si prepara psicologicamente per capire come si può fare. Psicologicamente e tecnicamente per ospitare presto il buon Mille Lemmi in un live qui dentro la Gran Paisa, credo lunedì prossimo. Eh sì, ormai dai. Oggi non ce la si facciamo. Si potrebbe anche fare lunedì prossimo. Tipo ci dobbiamo togliere sto dente? No, no, nel senso ormai tanto lo diciamo e... va fatta questa cosa. Va fatta, Poi altre cose da segnalarvi, la prossima è tua, mi sa, perché riguarda un'apertura di venerdì. Volevo dire una roba prima, che, visto che ho gli appunti che mi ha fornito il buon Duccio. Ha passato un paio di beat di questo tipo che si chiama Coffee, californiano, del collettivo My Hollow Jumps, quello di Tibbs, per okay, capirsi. Okay. Se volete sentire un po' di robe sue... tipo ne sa di brutto. I link sono www.myhollowjam.com, altrimenti c'è il MySpace proprio suo, www.myspace.com/coffee, COFEE. Ecco, giusto ti stavo chiedendo lo spelling, mi hai preceduto. A proposito di beat, allora ce n'è uno nuovo scaricabile dal sito della Ninja Tune, una produzione del nostro amato Flying Lotus, che peraltro uscirà poi con un album su Warp già annunciatissimo. Una produzione per una tipa che si chiama Andrea Triana. Il nome è strano, ma è così. Andrea Triana, lo trovate su Ninja Tune, scaricabile in free download il Flying Lotus Remix. Mi sa che bisogna continuare con gli appuntamenti, il prossimo è il tuo, quello di venerdì. Ma li vogliamo snocciolare un po' adesso, anche dopo, dai. Vabbè, tempo. Dai, se dico un dopo. Allora, gli appuntamenti per venerdì e sabato, creiamo un po' di suspense, ve li facciamo dopo. Invece adesso diamo spazio a Biga, alla sua selezione di 20 minuti. Senin attın zühtü, kendini tanma zühtü. Türklüğünü unutturanlara kanma zühtü. Aklını topla zühtü, kafayı vurursun zühtü. Uyuma sakın zühtü, sonra yanarsın zühtü. Komüniste kanma zühtü. Neler geldi başıma bak senin yüzünden. Ne yapsam da kurtulsam ben senin elinden. Dilerim Allah'tan sen mesut olma. Perişanım hiç halimi sorma. Kimler yazmış bu yazıyı yazanı? Gönül arz etmiyor böyle düzeni. Ezilir mi memleketin ozanı? Oğlum nereden aldın sen bu zinciri? İlyas Temel Süreyya kürekler siyah siyah. Emanet makinalı tüpekler Hotkiss marka. Karadeniz denizdir, kah uslu kah delidir. Gelirir Karayel'dir, Karayel oy Karayel. Karayel oy Karayel. Koca dünya gam yük müsün? Söyle söyle fani dünya dert küp müsün? Dünya handır han içinde, yaşar onun can içinde. Rüya gibi gelir geçer insanoğlu gam içinde. Bana bir kez gülmez misin komşu kızı? Hiç karşılık vermez misin? Karşılık vermez misin komşu kızı? Gönlüm senin, kalbim senin komşu kızı. Gönlüm senin, kalbim senin komşu kızı. Pencerenin arkasından komşu kızı. Perdenin arasından. Bana bir kez gülmez misin komşu kızı? Hiç karşılık. Thank you. yar yar yar yar anam edalım anam bükülüyor yolları aslanım dalgalım köklüyüm anam anam mı beni yanıdım anam anam mı çok sevdim anam anam mı ben öldüm anam. Bastırmalar denkte, kızlar oynamakta, ne olursa olsun diyeyim. Dediler de kandın, böyle karara vardın. Ne dediler de kandın, böyle karara vardın. Bu ayrılık sözünü şimdi nereden çıkardın? Bu ayrılık sözünü sen nereden çıkardın? Gel şöyle oturalım, bir çıkar yol bulalım. Gel şöyle oturalım, bir çıkar yol bulalım. Susmak bir şey halletmez, konuşup anlaşalım. Susmak bir şey halletmez, konuşup anlaşalım. Allora, vecchio, prima di interrogarti, stai lì fermo, mamma, perché so che sei teso, ma ora c'ho da dire una roba. Che il nostro buon Biga, con la sua selezione di Turkish Groove, si è beccato un po' di big up da Tirana, dal nostro amico Roots Ride, che ci ascolta sfruttando lo streaming di www.controradio.it, cosa che fanno un po' di persone che ci ascoltano appunto da fuori i confini toscani. Poi volevo dire che ora vi ci voglio scrivere la playlist per domani con ma tutta infatti, la scaletta, guarda, turca. Se l'è accollata Biga, ha detto la fa lui, oh calma. Storie di accenti con i doppi punti, sì, le cose strane, caratteri, sai, impossibili da trovare. Devi provare tutte le combinazioni dei tasti sulla tastiera, capito? Poi diventi matto. Invece veniamo agli appuntamenti, hai qualcosa da raccontarci per la giornata di venerdì? Io guarda, ho fatto come a scuola, non ho studiato ieri sera e ho letto tutto 10 minuti prima. Per cui ora fingerai naturalmente. No, quindi ora farò come a scuola, farò ridere, no scherzo. Allora, è iniziata oggi e andrà avanti fino al 30 aprile qua a Firenze in via dell'Oriuolo, 34 rosso. La seconda edizione di 27 giorni Temporary Store, che è nient'altro è che un negozio dove succederanno un sacco di cose, insomma, in questo periodo. In questo periodo che non sono di 27 giorni realmente, sono 50 siamo e qualcosa, a 27 giorni, però sono 27 54 giorni, esatto. Okay. E sarà una faccenda dinamica, insomma, succederanno tante cose ogni giorno, okay. Ci sono esposizioni, libri di design, abbigliamento fatto, insomma, da persone handmade, come esatto, si dice. Roba artigianale, creativa, sì. Tirature limitate, cose, capito? Accessori vintage. Però anche ci sono i DJ, mi sa anche. DJ e artisti a selezionare a fare live. Vecchio, qui non c'è scritto, questo lo devi sapere te. Sì, ci sarà. Allora, venerdì me lo ricordo io. C'è Dado, sicuramente, che fa il live, vero Duccio? E te ti ricordi tutto? E poi, vieni qua al microfono, vai. Duccio, vieni a te. Vieni te, metti le cuffie, no? Dici tu. Io mi ricordo il live di Dado, con cui inizia la serata alle 19. Cioè, inizia la serata alle 19. Ci dovrebbe essere Dado e Igor. Igor a mettere i dischi dopo. Sì, ora non so chi prima, chi dopo, però c'è da inizio, cioè la. In realtà è negozio aperto, però fanno l'inaugurazione ufficiale, la fanno venerdì. E c'è, mi ricordo, Dado e Igor, Dado in live. Non mi ricordo chi di VJ, però se andate su Facebook cercate 27 giorni. Cercate 27 giorni Temporary Store, vi viene fuori la pagina, eccetera. Yeah. Invece la cosa da segnalarvi per sabato è semplice, si svolge all'ex Emerson di Firenze ed è un doppio dancehall con due sound system, due di quelli veri autocostruiti, Jazz Station e Joker Smoker, che si ritrovano, speriamo pacificamente, visto gli ultimi accadimenti, nella yard dell'ex Emerson, a suonare per tutta la notte, naturalmente, roots e dub music. E basta, ora tocca al buon Bubu chiudere fino alle 22.30, poi arriva il GR in edizione flash da Popolare Network e poi le fantastiche farfalle notturne di Benedetto Ferrara, come fru fru. Di... Noi vi diamo appuntamento sul blog www.ragnampaisa.blogspot.com per la playlist di stasera e per riascoltare questa e anche tutte le altre trasmissioni. Buonanotte, alla prossima! what you already have. They can give you nothing. We're too strong. We're too proud. Where do they make their questions? They know the answer they want. So what the fuck makes them ask me for when I'm shooting calls? My course be most probably different from yours. These big balls bounce from my good foot to my mad foot, to my bad foot, covered in soot. Here look, the tar baby from the depths of the triple black. Tough back, love a man, cheating the death at my doorstep. Come along, come, squeeze my line, put the pep in my pepper and met my boom up. Move to the sound of Mr. Decker. I'm a done stepper, just give me the dive, man. You can see me jamming at my local pub, man. Talking my talk on karaoke machines. Old chicks in tight jeans, they holler and scream as I sing a song of sixpence, pocket full of rice and peas. I'm hitting by them clone MCs as I'm looking at my platinum black and thinking that 10 years of rap before I made my first grand. Full of our culture, non-time specific, prolifically listed, isodynamic, organically grown, phenomenal abdominal spasm, most hard to fathom. Sassy madam in my dream, got me seen, beautiful scene, she nice man between, she rock and call me with. This world is mine. You figures never gave me nothing. Don't waste your time. Don't come here with your bluffing. This world is mine. You figures never gave me nothing. Don't waste your time. Don't come here with your bluffing. I've been cast from the heavens to rectify the error of my boisterous exuberance. But not once did my good God give up on me. Yeah, I'm back up in Babylon. It's so sad to see my people get duped by them plastic gods. World dwellers, don't you see my lightning rods? Rebel fella, Kute, Sunrati, Bombo, Nati, decipher the scriptures. Refocus all the distorted pictures that they beam down on us. It's a must that we trust none of the Ura flaws. We're moving the spirit. We grew with the spirit. It's a must you feel it. I know we really need it. All them a try, all them a diss. They can't stop the work. Hard this claim to fame is we don't claim fame. All that we portray is the voice of the voiceless. Choice of the people that have no choice. So we sing and rejoice. And we praise Almighty. The devil see with flight. Now they want come slight we. The devil see with flight. Now they want come spite we. Move, go ahead, move. This world is mine. You figures never gave me nothing. Don't waste your time. Don't come here with your bluffing. This world is mine. You figures never gave me nothing. Don't waste your time. Don't come here with your bluffing. Now that you've been made before, time for outer space to be explored. We traveling at the speed of sound. Looking for life forms, we came to get down. Other galleys fill our phone. Break them off with it just a chunk. Sending out this transmission for the whole universe to take a listen. We disconnecting the dots. You can call us funky knots. Trying to make you shake your hips. Blasting off like the mothership. And teleporting you to take this ride. At warp speed on the groove indeed. We still got a way to go. Buckle your spacesuit and get in the flow. Get in the flow, come on. Experience like Hendrix. Keep my sound rich. Cats ask about my stitch. To me, they sound a bitch. And my sound's a glitch of hatred. But cats who ain't make it, I'ma give it as far as you can take it. Try to take the safe way. Told you there's a gateway to skinny. Many can find it, but few can climb it. I'm open minded like a pothead. Doing what I gotta do to keep the spot there. In a climate of locked dreads, cornrows, torn souls, warm hoes who've been molested by their uncle. I bundle amongst you cold mother uckers. The world is bitter like baby mothers. Look how far Eldorados and wine bottles drug us. Least God and the sun love us. It's the sun God. Smoking grass, try not to say shoot around my daughter, she already know the blast. Catching the future, don't know who's through the past. It's the yeah, the snake and the hidden dragon. Niggas is fake like bitches bragging. Listen to the ocean and the stars. Keep my vision in motion. Emotion like cars. I'm down to earth. At times I feel closer to Mars. The world is yours. I'm hoping it's ours. So say the gods is crazy. I see God in our baby, child of the sun. I allowed it to raise me from a distance. Niggas try to appraise me. I'm hard to read like graffiti, so it don't faze me. My days be spent behind dreams sent through the sun. The divine being is sent. It's the sun. Out the motherfucker pack. Right out the but niggas son. Don't know how to act. Yeah, son. It's out the motherfucker pack. Yeah, son. But niggas don't know how to act. Yo, NYC. You and I verse seriously. Havoc can be Queens, niggas, so it seem to be. Monopolize strategies of war, exercise mega. Got word back for Noriega. The DA got video cassette taper. The guard with the guard, you now pulling the caper. Running up in the spot, mass and duct taper. Pig tie they motherfucking wrist to the ankles I've been through. Crime shit my niggas into. Peep the issue, situation like this, we sticking him too. JFK on our way to LA. Got links with big ass down in Santa Barbara. My crew do it the mob way every day. Crime pay, who wanna gunplay? Thrill me, niggas kill me. Grilling me, you wanna look, peep the 9 milli. Now undress, you know the drilly. Niggas suspect, weak links pose threats. I have yet to met challenger who go against my set. Gem stars, razor sharp like Gillette. Shaving closely on any character approach me. I let the streets get the best of me. Infamy, my destiny. While cat burger laws trying to sneak deep the recipe. Inside my rap cookbook, paragraphs is gourmet. You pay about 5,000 on a plate. No doubt, kid, I hit them niggas like a bit. The prosecutor running up in your crib. Do your dirt, I do my dirt by my lonely. It's only me and the gap that's holding me. We got a lock beyond measure. The click's under pressure. Escort you for your treasure. Smack her with the undresser. Represent your click. Go ahead, get that ass whipped. Flowing in the river with your body wrapped in plastic. Wanna be thug, get smack for back talking. QB represent. Fuck that, it could happen. While you rapping, I'm busy trying to sneak the gadget. Contaminate. Cut cut the party short while you jamming. We think smarter, reach harder. Got the 44 bodyguard or something you don't want a part of. If I was you, then I would do what I have to. But you ain't me, you hesitated, so I clapped you. Then stepped off casually, naturally me. Niggas thinking shit sweet, I carry big heat. Wavy hair, chip teeth, up in this bitch deep. Queens murder clicks me. Yellow tape on black gates, Mediterranean. Projects is like the way I escape into zone. That's a regular, watch the band on the phone. Moving in the moon's grace at a schizophrenic pace. Swallowing the sunlight, sight is a blessing. When she dances by, head on, hun, but mind screwed off, so throwed off. Love nuts and crazy, stayed in a made personality, trying to bring the person out of me. Victim of an exploited culture, feeling so choked up. I need a Cadillac truck. Yup, that's a mind glitch. Yup, that's a mind glitch. Yup, that's a mind glitch. She keeps me somehow where I wanna be. Back in the black shapeless form, call me spacey, but it don't faze me. Professor Mutapa hopped up on beats and rhymes. I love it when she reflects my shine. Born into the bush, but look out for the ambush and push your crazy self. Push your crazy self. Push your crazy self. Push your crazy self. Push your crazy self. Push your crazy self. Me go. You keep sending me vibes when I'm up in the studio. Always been around since I was a little child. Gave me inspiration when no one else was around. Women, yeah, they come and go, but you always stay down. That's exactly why I think you do deserve a crown. With emotions like oceans waving, but you never let me drown. Always kept me afloat with your uplifting sound. Follow me from NYC on down to ATL. H-Town, Harm Clark is where I used to dwell. See me up in Philly when I ain't up in my shell. Dipping through the hood, bending corners, leaving trails. And you still can't find it. The craft, the lost art, is gleaming like diamonds. A perfect gift from the creator to help me get that paper that be green like apple now later. Later. Allow yourself to gradually bring your awareness back to an external focus. And whenever you're ready to, Allow your eyelids to open.